Coxo Spaziale. L'arte come non l'avete mai. Un programma di Fedra C. Boscaro e Stefano W. Pasquini. Okay. I don't want you in my life, just give me back mine. I think it's about time you. There is a room in your life for more pairs of shoes. It's all about you, so you're only in love with yourself, obsessed with how well you're coming across. Get lost. Now I can see I was just starting to match with the purse. I'm not your poodle. No, please. Why are you acting so cocky? You can meet like your chicks bounce like Dolly, 'cause I know tomorrow night at pillow talk time you call my phone sobbing and sounding all sorry. You were so silly acting all gobby, 'cause I just ain't another girl like E. Plus you ain't worth another girl like me. I can do way better than you, risk, don't worry. Now I'm pulling the chains, always flush out my veins, out the drain. Flush, you're lucky, no more sink. You left skid marks, but the scars don't last. Flush, time to be me again. Flush, each bubble, meet my friends. Flush, sorry love, what was that? What I heard was nah, yeah. I've been too nice, too nice, too nice. You can't afford to be stush. I think you've been smoking way too much bush. I've been too nice, too nice, too nice. And you're talking way too much. Before you get here, I suggest you to slush. Questa puntata si avvale della super mega galattica co-conduzione di Massimiliano W. Jingle Bell Bria Rava. Flush you out my system. Flush, now I'm pulling the chains. Always flush out my veins, out the drain. Flush, you're lucky, no more sink. You left skid marks, but the scars don't last. Flush, time to be me again. Flush, each bubble, meet my friends. Flush, sorry love, what was that? All I heard was I've been too nice, too nice, too nice. You can't afford to be stush. I think you've been smoking way too much bookers. I've been too nice, too nice, too nice. And you're talking way too much. So before you get here, always I suggest you flush. Dobbiamo registrare dietro, succede qualche cataclisma tecnologico. Appunto, forse è il caso che la notte, insomma, dire, prendiamo atto che le nostre cose non funzionano. I tried to do something nice, you just whine. I bought you champagne, but now you want wine. It's a real pain, just make up your mind. I made up my mind, you're wasting my time. You ain't got no right, you wait all the pipes. Plus I know five guys who's waiting in line. So best share the slide and say your bye-byes. Non funziona il registrato, funziona solo live. Va bene. Dai, lo scopriremo nel corso della 122esima puntata di Coxo Spaziale, l'avventura inizia. Comunque adesso io rivoglio lui che canta, eh. Beh, ma lui ci sarà. Ma cosa ci fai qua sotto le chiappe del Nettuno? Guardo le tette strizzate delle ninfe del Nettuno che... Perché lo dici così scandito? Forse perché lo stai ripetendo per la seconda volta. No, va bene, lo ripeto. Guardo le tette strizzate delle ninfe del Nettuno che mi hanno sempre turbato alquanto. Ma in effetti l'altra volta, quando 5 minuti fa l'hai detto, che poi non abbiamo registrato, l'avevi detto in un modo che io mi attaccavo e dicevo: ma non t'eri mai accorto che strizzano le tette, che erano proprio zozzoni nel 600? Ma no, ma sono zozzoni nel 600 come lo sono anche adesso. Comunque, insomma, a quel tempo dicevo, poi hanno queste tette tonde, sembrano delle bocce. Beate loro. Ma capito? Le Nereidi. Non ci sono più le bocce di una volta. No, in realtà ci sono ancora. Ne ho viste di recente. Hai devo visto dire delle bocce? Sì. Sei stata una bocciopila? No, sono stata alla Jam di Contat, nello spogliatoio femminile c'erano molte bocce. Comunque, adesso abbiamo parlato delle tette, delle ninfe. Delle chiappe. Vogliamo parlare dei glutei del Nettuno? E vogliamo parlare del fatto che esattamente lì, da dove si può vedere, oltre che le chiappe, anche quell'altra prospettiva molto simpatica e gioviale, triviale. Comunque a Natale adesso non dovremmo... c'è quell'alberone. Ah, l'alberone. Quest'anno l'hanno fatto dritto, l'anno scorso era storto e il sindaco Merola disse: la natura è così, non possiamo cambiarla. E quest'anno invece la sua dichiarazione è stata soltanto una: è dritto. Bene, che sia di buon auspicio. Mi ha veramente sì. Per il 2016. Un albero dritto non può che portare fortuna. Comunque. Ah, fra l'altro comincio nelle cuffie a sentire la prima atmosfera musicale della 122esima puntata del Cox. Abbiamo che è girata in estremi, che noi sappiamo già come si chiama, ma che ce lo siamo anche dimenticato, per Alessandro. Adesso gliel'ho restituito. Grazie per questo brano. Grazie. Tu sei? Alessandro Varo. E resti qua in questi giorni? Sì, penso di stare un po' di mesetti, un annetto quasi. Ok, quindi sarà possibile rivenirti ad ascoltare. Sì, perché no? Che brano era questo? Un altro brano di Eddie Vedder. Without You, dovrebbe essere il titolo, sì. Cerco su Wiki e poi te lo dico. Grazie ancora. Ciao, ciao. Buon Natale. Sì, perché ce l'ha fatta due volte, capito? No, non ne ho, era un'altra, quella di prima. No, quella sì, di quando non avevi schiacciato il tasto rec. Appunto, nel senso che, vabbè, non ce l'ha fatta due volte il brano, ma ce l'ha fatta due volte a dirci ciao, che sorpresa! Comunque ci avviamo verso Via d'Azeglio, dove c'è uno splendore di luminarie natalizie. Sì, molto, molto, molto... Che ricordano tanto il periodo... Uno dei periodi... Dici? Ma no, va bene. A me ricorda la confezione... Sono semplicemente patriottiche. Ricorda la confezione della pasta di Vella. Sono semplicemente patriottiche. Vogliamo fare... No, la foto l'abbiamo già fatta prima. Esatto. Effettivamente. Tu stavi e poi dicendo... tu hai detto delle cose intelligentissime prima, perché hai detto... Ma sì, in fondo ricordano dei portici. Sembra di stare ancora sotto i portici. Questa iconografia. Sì, così. Ma questo l'ho detto dopo che tu hai fatto questo splendido commento a tua volta sulle luminarie di Bologna per quanto concerne l'illuminazione dei monumenti storici. Praticamente stiamo rievocando tutto quello che prima abbiamo che detto. Che ci era venuto benissimo. Tutte le cose splendide altro. Che abbiamo detto. Allora, io avevo detto... che in Piazza Maggiore, come in generale in tutta Bologna, c'è una particolare delicatezza e poesia nelle illuminazioni che illuminano i monumenti. Questo è una cosa che ho notato fin dai primi tempi, fin dagli anni 90, quando sono arrivato a Bologna per la prima volta. Piazza Maggiore è illuminata benissimo, ci sono queste figure in controluce sul crescentone, insomma, era questo quello che volevo dire. Magari prima l'avevo detto meglio. Sì, l'avevi detto indubbiamente meglio, era stata una sorpresa. Però effettivamente io ti ribattevo che sì... Adesso che mi ci fai pensare è tutto molto morbido e pacato, richiama forse la morbidezza del barocco nelle sue linee di fuga, gli spazi arrotondati. Scusami, ma dove lo vedi il barocco a Bologna? Non lo so, ah, non lo ok. So. Grazie, grazie Max. In ogni caso, bella, bella Bologna, belle le sue luminarie. La barocca Bologna, certo. Vabbè. Bologna è una ex città medievale, poi trasformata da Rubiani in una finta città medievale. Ah, guarda chi c'è anche, che ci può dare chi qualche... C'è? Martignoni! Ecco, buonasera! Cioè, ma guarda! Ma guarda! Martignoni, ciao! Adesso buongiorno. Che mi riprendo dallo shock, facciamo andare un brano natalizio, il facciamo secondo. Andare un brano natalizio, ecco, no, a caso. Facciamo andare. Ciao, Andrea! Let the Christmas special shine a light on me. The Christmas special shine its ever love light on me. Let the Christmas special shine a light on me. special. Shine a light on me. Let the Christmas special shine its Avalon light on me. Giustamente ci stavamo chiedendo, queste luminarie tanto vituperate dalla critica, lui è stato sempre fuori, l'Andrea Martignoni mi è stato all'estero, perciò lui è anche un soggetto puro. E l'abbiamo incontrato qui che sfrecciava in bicicletta sotto le luminarie ad arco nazionalista. Ad arco tricolore. Sì. Vabbè, se già fai i commenti tu, però cosa devo dire dopo? No, va bene. Che sono ad arco, che sono nazionalista. Erano le uniche cose che avevi provato andando lì sotto. Ma sì, cioè, no, la prima cosa che ho pensato, guardando da lontano, si era acceso il verde, da lontano gli occhi baluginano un po', e pensavo fosse una versione scimitara delle spade di Guerre Stellari, visto... Vista la corrispondenza temporale dell'uscita del sì, che in effetti se non sbaglio c'è quella bianca, c'è quella rossa, metti che aggiungono quella verde. Certo, non so, mi ricordo i colori di Guerre Stellari, però non erano certi quello della bandiera italiana, che è l'altra cosa, vorrei conoscere chi l'ha pensato questa cosa qua. Stringergli la mano. No, io sì, eufemisticamente, stringe la mano con un maglio probabilmente. Per il resto come va? Sei bene. Sei ancora nei transiti? Sei giusto di passaggio per Sono Bologna? Sono giusto di passaggio, insomma. Cosa non farò ci racconti dal mondo dell'animazione mondiale? O anche delle luminarie mondiali? Luminarie? Ma sono stato in una cittadina danese dove non è che ci fosse granché di luminarie. Quindi non so. Lo sentono meno il Natale o non era ancora periodo? Ma io non lo sento proprio, quindi non so adesso... Vedo quest'albero in fondo che non mi sembra neanche dei più brutti mai fatti a Bologna. No, dicevamo che quello dell'anno scorso era storto, non so se lo ricordi. Sì, quello dell'anno scorso era storto. Io non così lo orgogliosamente ricordo. Storto. Quello è vero. Un po' preso dalle torri probabilmente come idea. Ah, molti hanno pensato che fosse una cosa poetica effettivamente. Questo insomma... Invece quest'anno è dritto. È drittino. Dire. Che ci raddrizza nella torre un secondo voi? Un dignitoso alberello di Natale. È un lucignoloso. Lucignoloso. Non lo so, io non... Queste sono, a parte tutto, sono veramente brutte e di cattivo gusto. Ma non dico avessero fatto quella francese, perché vabbè, buona, basta queste cose. Comunque noi non siamo molto nazionalisti, non siamo molto... Dici gli italiani o noi tre? Gli italiani in generale. Insomma. Io penso che i francesi, se vedessero una luminaria così... con il blu al posto del verde, direbbero più... ah sì, finalmente. Davvero? Ma secondo me sì, anche perché hanno una storia di nazione un pelino più pesante, se vogliamo, e anche forse più con una logica più logica della nostra, che è tutta sfracellata, sì, qua e là. La nostra è nata anche un po' per caso dall'alto, copiata a destra manca sui modelli europei, copiata male. Che forse bei discorsi natalizi che stiamo sì, facendo. Sì, dicevamo, ma novità novità dal mondo dell'animazione, qualche dritta. Ho appena finito un film, quindi una colonna sonora, anzi, per un film, quindi quello sarà bellissimo, ma non è un film panettone per Natale. No, no, però potresti peccato darci qualche... Oggi ho letto la notizia che Christian De Sica è morto, ma era falsa purtroppo. Ok, stavo per dire, vabbè, ok. No, ma invece volevo chiedere ad Andrea se può dare qualche dritta rispetto ai prossimi appuntamenti internazionali, così se c'è tra i nostri ascoltatori qualche amante del cinema d'animazione, magari può anche prendere in considerazione di comprare qualche biglietto. Con un BlaBlaCar. Dunque, sì, con un BlaBlaCar consiglierei, dunque, a marzo faremo una settimana dedicata all'animazione, di cui curo 4 programmi, a Kuala Lumpur, col BlaBlaCar. BlaBlaCar in un attimo. Non ho neanche ben idea di dove si trova, in quali... Dov'è Kuala? È la capitale della Malesia. Ecco, bene, quindi bene. Gli amanti, due o tre BlaBlaCar, dai. Ci vogliono due o tre BlaBlaCar. Lo fanno anche in barca, vero? BlaBlaCar, wash car. BlaBlaBoat. Ecco, questo ti do questa chicca qua. Ma comprare il biglietti mo. E invece prima in Europa, sì, adesso per andare in prima quel in Europa del... non sono periodi da festival, no, pieno inverno, più no. Allora si niente. Più avanti da marzo in poi. C'è a febbraio Clermont-Ferrand, quello sì è importante. Ok. Non solo per l'animazione, che è il più importante festival di cortometraggio del mondo. Quindi io arrivo a casa, ti scrivo su Facebook, mi passi il link che da domani sì, perché ci ascoltate in differita, saranno pubblicati, cioè il giorno di Natale, saranno pubblicati su www.coxospaziale.blogspot.com. Ma c'è un posto dove si possono vedere le tue cose, dico, su internet? Su internet, ma i vari... per selezionare i vari autori, Blu per esempio... Ma questo è conosciuto da tutti. Ma tu mandami il link anche delle cose tue. Delle cose mie, ma che link ti mando? Ti mando un CD. Il CD? Ce l'hai? Beh, ce l'hai? Non male. Ce l'hai già? Sì, ne ho uno, però. Non ce ne ho dati due? No, uno. Okay, uno. Che l'altro dovevi tenertelo da dare a quelli che incontravi in giro per il mondo. No. E poi la mettiamo Parlo di CD, Parlo di CD. Ma quello fatto in Canada e quello fatto in Francia. CD. Facciamo che. Compact Disc Audio. No, okay. No, mi hai dato la compilation di CD. Di insomma, va bene, facciamo che la risolviamo poi in fuori onda. E intanto onda. Però ti strappo l'impegno che il prossimo per Natale. Capelli strappi, cos'è che li strappi? Capelli due. No? Quelli li abbiamo già strappati due. L'altra puntata. Mamma mia, ti sei messa d'impegno. Sì, ho fatto un bel lavorino, vuoi anche tu? No. Il mio parrucchino non lo tocchi. The Pill. No, dicevamo per Natale tutti. Dicevamo, ma il prossimo brano che stiamo per ascoltare tutti quanti insieme sarà uno tuo? Dai, perché no? Evviva! Qual è? Quale potrebbe essere? Tesoro mio, tu ce l'hai il CD, perché abbiamo messo su a Shakens on the Panair tutto il lavoro radiofonico, l'abbiamo messo su un pezzettino sì, o due in radio. Ho capito. Sarà quello, dai. Sarà quello. Sarà un pezzo di quello. Che sennò, perché io mi ricordo che il DVD non me l'hai dato, ma hai dato il DVD dei corti di animazione, perché di quello ne avevi pochi, mi pare. No, non è vero, è falso. Comunque, ascolterete qualcosa. Lo scoprirete su www.cosacontospaziale. Va bene. Purtroppo non possiamo cantarlo qui in via d'Azeglio. Esatto, anche perché sono rumori presi dalla strada, quindi lo potete presi ascoltare dal invece da qui. Sì. Ah, beh, basta avere un accento francese, eccetera, eccetera. Qualche scalpiccio registra. Vado. Un'aggiunta di informazione per gli amanti del cinema d'animazione. Ma sì, che in parte è un festival che ha già dato buona parte del meglio di sé, ma la parte conclusiva del piccolo festival dell'animazione sarà a Udine il 29 e 30 gennaio. Dicembre, quindi sarebbe anche buono per vedere una città non brutta del tutto che è Udine. Chissà che luminari avrà poi. Chissà poi che luminari avrà, bisogna assolutamente andare a controllare. Farò sapere perché andrò. Tutte le luminari. E poi, sì, esatto, e poi lui dice che ci fa censire di per sé, comunque ci andremo anche noi a Udine a vedere. Ovviamente, cosa altro avete da fare che non andare a Udine. E insomma, siamo rimasti noi, tutti italiani che non giriamo tanto, che stiamo qua a Bologna a chiederci il perché. Ma io non saprei dirlo se rimango qua a Bologna, poi andrò a trovare la mamma come vai a trovarla tu. La mamma bisogna, infatti è per questo che siamo in differita, mica e per altro. E tu dove sta la mamma? La mia sta a Padova, la tua? La mia sta a Salò, sul lago di Garda. Dove tu fosti dove io il bambino. Dove io ebbi i Natali. E anche il titolo di bambino più bello del lago. Beh, ma tu come fai? Tu queste cose non le devi dire così, scusa. Come se fossero delle banalità. Bisogna dedicarci un'intera puntata. Va bene, a pensavo evento. Che dovessi semplicemente censurarlo. No, ma invece ritorniamo, siamo qui, sotto le feste, sotto Natale, sotto gli archi tricolori di Via d'Azeglio che hanno raccolto tante critiche. E a questo punto io mi chiedo se abbiamo o no bisogno del parere di un esteta, di uno che di estetica ne ha fatto la propria professione. Sgarbi? Sgarbi, a parte aver appena avuto un'ischemia cardiaca, poverello. Lo so. Ma si è anche, non pago di ciò, si è anche dimesso da assessore alla cultura del paese, della città di Urbino, perché non gli piaceva l'albero di Natale che era stato messo in piazza. Ma dai, proprio una coerenza. Per cui ci vuole del etica. Coraggio. No, comunque, vabbè. Se non fosse che l'assessore alla cultura di Bologna non c'è più e il posto è stato preso dallo stesso sindaco, io credo che anche l'assessore alla cultura di Bologna si sarebbe dimesso di fronte a delle ma chiediamo il parere, del genere. Chiediamo il parere di un professionista dell'estetica, che non è Sgarbi, ma una persona di cui tu porti il W. Allora, dobbiamo fare questo numero magico? Facciamolo. Allora, vediamo. Fammi sentire. Non so, viva voce. E poi il pulsantino, quello? No, si sta già facendo, sta già chiamando. Ma eccolo. Pronti? No, vedi che c'è scritto chiamo? Però sento il puu. Ah, puu. No, no, dai l'ultrasuono, non devi farlo. Più là, più là. Pronto. Ah. Ecco. Pasquini. Ciao. Sì. Pasquini, un urlo da casa. Chi stai siliziando? Aspetta che devo raddrizzare i volumi, perché sennò, eccoci. Pasqua! Ricordiamo i volumi, prova. 1, 2, 3, siamo a posto in via D'Azeglio. Ovvero, ti stiamo chiamando in qualità di consulente, esperto di estetica in merito alle luminarie di via D'Azeglio. Ci puoi dire qualche cosa? Non me ne ricordo. Ma come? Sono quelle tricolori! Sono gli archi tricolori devi assolutamente venire qua a vederle insieme a noi, non puoi mancare. Ma è come se ci fossi, sì. Ma le ho viste tipo 2 giorni fa, però non me le ricordo. Evidentemente mi hanno fatto così tanta buona impressione che non me le ricordo. Che le hai rimosse perché dici ok, è una cosa sulla quale non devo vigilare. Quindi ti sono piaciute un sacco. Un sacchissimo, devo dire. Ti sono entrate nell'alma natalizia. Di queste cose veniali. Perché stiamo registrando il coxo natalizio, visto che il 24 siamo tutti e due a trovare le mamme. Ah, molto bene. Hai capito? Capito? Abbiamo svelato l'arcano. Adesso. Il fatto di registrare il coxo natalizio non significa che dobbiamo parlare di illuminazione di via D'Azeglio. E invece di cosa parleresti tu? Ma non lo so, di che cosa hai comprato di regali di Natale tu? Vabbè, ho capito, che grande alternativa. Beh, io ho appena comprato una teiera e dei sottopiatti, e poi ho comprato un cappuccetto a forma di orsacchiotto per una mia amica, e mi restano altri 2 o 3 amici liberi e poi ho finito. Tu invece? Ma io devo comprare tipo 4 libri domani. Uno per mia madre, uno per mio padre, uno per mio fratello e uno per l'altro mio fratello. Quindi tutta una famiglia di intellettuali. Ma no, più che altro gente che legge. Non sono proprio intellettuali, però insomma. E da che libri compri, scusa? Ma dunque, allora, un giallo per mia madre, un giallo però un po' storico per mio padre, un libro sulla politica per mio fratello e un altro un po' cretino per l'altro fratello. E così abbiamo scoperto che il Pasquini c'ha altri 2 fratelli. Un libro un po' cretino, sono molto curioso. Siamo davanti alla Mondadori, potremmo andare a cercare per te un libro un po' cretino. Beh, lì fai poca fatica. Hai capito? Cioè, ho l'imbarazzo della scelta. Meriti avvicinare al microfono. Ma uno dei 4 mi è venuto in mente che è uscito un nuovo libro di Fulvio Abate che si chiama Roma contro vento, che racconta Roma in maniera un po' cretina, per cui potrebbe essere quello il libro un po' cretino, pur non essendo cretino, perché Fulvio Abate è un grandissimo. O se no si può consigliare agli ultimi regali che verranno fatti tra Santo Stefano e Capodanno, quelli ritardatarissimi, se vogliono leggere, di leggere il libro di una certa Alberta, sbaglio? Ah certo, beh, c'è Sparagni, com'è che si chiama? Sparagni l'avaro di Romagna, che è un libro di 2 o 3 anni fa, invece l'ultimo si chiama La Contessa di Tarpiglia, che è meraviglioso, secondo me è il suo libro migliore, effettivamente. Se lo riesco a trovare, effettivamente questo per mia madre potrebbe andare bene. Ok, e siccome non si riesce bene a capire il titolo, da domani lo si troverà su www.cozzospaziale.blogspot.com. Sparapiglia. La contessa Sparapiglia, non mi ricordo più. Non ce la fa. Da domani su è una supercazzola. Starpigna, non mi ricordo più, giuro che prima l'ho detto come se non ci fosse un domani, invece adesso che me l'hai chiesto preciso. Però giuro che da domani lo pubblicherò sul nostro blog. Perché un domani c'è. Pasquini. C'è un domani, l'importante, ma tu lo sai che dopo domani. domani invece è il tuo compleanno, credo, cioè il 26? Facebook, non lo sa nessuno, però cioè, te lo posso dire. Dopo domani è il 26? O il dopo Fedra, vuoi delle rose? Allora era ieri. Ah, quindi il 25? No, era ieri. Proprio il giorno di Natale? 24, ieri era il 23. Ah, ok, quindi il 23 Fedra, dicembre. Non vuoi delle rose? Ah, no, grazie. Buon Natale anche a te. Niente rose. Fedra, sei crudele. Da dove vengono quelle rose? Se da dove vengono? Da dove vengono le rose? Questo. Io prendo il negozio. Questo è arrivato Olanda. Questo è arrivato Olanda. Sì, bellissimo. Sono rose olandesi. Hanno anche un buon profumo. Questo parfumo, guarda. E invece tu che le vendi, da dove vieni? Venduto tutto la No, tu da dove vieni? Io Bangladesh. Dal Bangladesh. Ok. Dal Bangladesh. Buon Natale. E quindi ecco Pasquini. Che brano mettiamo per Natale? Quello che dici tu? Ma dai, prendiamo una rosa. Prendiamo una rosa, dai, va bene, prendiamo una rosa. Tieni. E la scegli tu però. Io metterei Ring of Fire di... Come si chiama lui, quello country? Non lo so. Johnny Cash. Ah, okay. Rosa. Johnny Cash. No, la voglio rosa. Okay. Ce l'hai, No, me la rossa. Beh, allora... Ah, va bene, Lucio Dalla, subito dopo l'acquisto di Natale. Va bene così, allora dammela gialla. Ciao Pasqua. Insomma, 2 euro solo gialla. Se la voglio rossa sono 3 euro. Va bene, gialla. Ma ci credo. Ma perché c'è un razzismo nei confronti del colore? Non ho capito, il giallo costa meno del rosso? Va bene. Di più, forse, va di più. Comunque, insomma, adesso io ho una rosa che non puzza neanche tanto. E adesso, dopo Johnny Cash e dopo 2 minuti di Lolly, andiamo a regalarla a qualcuno per la strada. Andiamo a regalarla al Comos? Ah, sì. I 2 minuti di Lolly, come siamo messi con i 2 minuti di Lolly? Devo chiedergli di farne degli altri? Eh beh sì, va il 25esimo. Ah, per cui siamo quasi alla fine. Sì, sì, no? Ma mettimi in programmazione Lolly. E adesso andiamo a salutare la Donatella. Ciao Pasqua. Ciao. Ciao Pasqua. Buon Natale e tanti auguri. Buon Natale anche a voi. Ciao. Coxo Sacrale. I 2 minuti di Lolly hanno una durata percepita variabile. Già finito? Il Comos ascolta? Corso spaziale. Poi ci ricordano di essere in Italia. E poi cos'altro? Dico, guarda, io ho 21 anni che sono qua, ma delle luminarie così Cioè, sono brutte. Comunque sono le più brutte di tutta la, cioè di tutte mai le vie viste. Di Bologna. Anche perché, guarda, noi le abbiamo sempre pagate le luminarie, cioè quindi... Cioè, ma non è che le paghiamo 380 noi. Euro. 340 euro. A negoziante. Ma dai! Certo, perché così un po' le passa al comune, un po' le passano ai negozianti. E quindi grande soddisfazione in questo Natale 2015, eh? Sì, sì, no, ma anche da altre parti dicono, mamma, fa, ma cosa avete fatto? Fa che bello il luminare patriottico, io mi sono rimasta... Però insomma, cioè Via D'Azeglio si distingue sempre, insomma, un po' per... O in bene o in male. No, ma di solito si distingueva in bene, ma questo qui proprio quest'anno ci ha lasciato tutti di stucco, sia noi negozianti che proprio anche cioè, chi ci passa, mi covara a fare, fate le luminarie così. Ragazze, vi ringrazio, è stato proprio un parere di due esperte a questo punto. No, perché no, giustamente io. Voi siete due negozianti della strada, di questo sì, no, ma di quei 20 anni che sono dentro qua, quindi insomma ne ho visti di luminarie. Cioè, insomma. From outer space. Hai capito? Non potevamo trovare persone migliori per avere un parere su queste finalmente luminarie. Finalmente delle esperte, qualcuno che parla con cognizione di causa. E invece questa bella rosa andiamo a portarla al Coro Comos. Andiamo a portarla al Coro Comos. E vai, intanto cosa ascoltiamo? Un'anticipazione del concerto? Oppure... Ma no, no, ascoltiamoli dal vivo loro. Adesso potremmo ascoltare... Quel brano lì? Quello! Ecco! Per Natale io vorrei aver l'odore dei biscotti, far venire l'acquolina e parlar come nei fumetti. Per Natale, per Natale, quando sono stupefatto, fare gli occhi a mulinello, profumare di biscotti, pensa non sarebbe bello. Per Natale, per Natale, per saltar di palo in frasca, avere i piedi con la molla, per viaggiare da signori, volar via dentro una bolla. Una pioggia di comete sul soffitto dentro casa, mica solo per Natale, che regalo niente male. Per Natale, per Natale, non mi serve l'orologio, la cravatta o il portafoglio, ma se è ora di giocare, l'orologio sì lo voglio. Per Natale, per Natale, soltanto queste scarpe che si stanno consumando, ci dovessimo lasciare, se ne andranno via ballando. Caro babbo, sia Natale, passerai da queste parti, se nel sacco non c'è tutto, non star mica a preoccuparti. Per Natale, per Natale, che se il mondo profumasse di biscotti al caramello, anche solo per un giorno, pensa non sarebbe bello, se poi tutto profumasse come caramello e mu, anche solo per un giorno. Chi lo scorderebbe più per Natale, per Natale, per Natale. Altra strada, altre luminarie. Beh, altra strada. Dove siamo? In via Pescherie Vecchie? Sì. Sì. Via Pescherie Vecchie, il Quadrilatero, sono dei posti bellissimi. Ora non stiamo troppo a badare a queste luminarie a forma di palla, che onestamente... La palla di Natale! La palla è imbarazzante, tanto quanto il tricolore, però queste vie sono veramente bellissime. Ci sono questi prosciuttoni appesi, queste forme di grana gigantesche, le vecchie osterie... Tutte queste persone sedute... E anche alcune in piedi. Thank God. Freedom. The door is open. And I consume. Achète-moi une paire de néons et des tuiles cheap où la cloche de porte étincelle et imagine des anges ou plein de choses qui coûtent trop cher. Une gomme ballon mauve, un porte-clés ciseaux, une barrette, des cartes d'hockey, de la crème glacée, des revues cochonnes et des batteries. C'est tout ce que je veux. Ou passez-moi une cage dans le fond près des 15 villes et achète-moi un chien de garde pour me protéger, mais remplis mon cœur avec le dépanneur. Je veux faire l'amour sur les gratteux de l'auto de Québec. Je veux ouvrir les boîtes de conserve et préparer un festin pour tout le quartier. Distribuer les bonbons multicolores aux petits culs du coin, les voir sautiller de calories, les voir heureux. Je veux organiser un carnaval aux dépanneurs qui rougit et qui explose dans la face des autres dépanneurs. Je veux écouter des cloches d'église dans mon dépanneur, entendre les prêtres chanter nus, leurs serments entre les pâtes et les grandes mères dansant sur la mayonnaise. Sacrifier les démons sur la caisse enregistreuse et distribuer cette richesse to all the people in this fucking neighborhood. Este barrio. Dépanné, Chris. Ed eccoci di nuovo in strada per la 122esima puntata del Coxo, registrata per voi apposta dai nostri redattori. No, cosa siamo noi? Coxo conduttori in esterni per le vie più natalizie del centro di Bologna. E sono qui Fedra Siboscaro in compagnia di Massimiliano W. Invest, W. Briarava. E adesso stiamo andando in un posto veramente, veramente speciale, che di solito in dicembre, non, anche l'anno scorso mi sa che abbiamo fatto una capatina. Sì, voi l'avete fatta, io non c'ero, chissà dov'ero, forse ero dentro nel coro. Forse. Perché fino a qualche tempo fa cantavo in questo coro, Comos, e adesso invece vado a intervistarvi. Ma con la K o con la C? Con la K. Comos in greco vuol dire corteo orgiastico. Oh, e la cosa simpatica è che fanno le prove dentro una chiesa. Esatto, ma la chiesa è evangelica. E quindi non sa il greco? Eh? E quindi non sa il greco? No, no, che gli va benissimo che sia un coro orgiastico, la chiesa evangelica non ha problemi con le orge. Sai che non conosco nulla della... Mia nonna era diventata evangelica. Date il vostro... cos'è? 8 per 1000. Date il vostro 8 per 1000 alla chiesa valdese. Ma... Vabbè, questo magari me lo racconti dopo fuori onda. Comunque, da domani intanto su www.coxospaziale, non lo so dire più. Sei stanca, il pignoletto ti ha stroncato. Sì, sì, sì, sì, non sono più i cocci di una volta. Paesaggi spaventosi. Www cosa? Www. Stavi dicendo, domani su coxospaziale.blogspot.com cosa possiamo trovare? Ah, il link del coro Comos. Ma certo. Il link di Andrea Martignoni, e il link per scaricare questa super mega puntata, il link dell'albero di Natale e le fotine che ci saremo fatti. Dobbiamo farci delle foto, ci facciamo una foto sotto il Nettuno? Facciamoci una foto sotto il Nettuno e l'albero insieme. Dai, fatta. When all the world is a hopeless jumble and the raindrops stumble all around, heaven opens a magic plain. When all the clouds darken up the skyway, there's a rainbow highway to be found. Parte che il finale un po' non sapevano quale dovesse essere, però mi sembra che sia andata bene. A me sì, sono troppo contenta di avere Comos come ospite speciale della 122esima puntata di Coxo Spaziale natalizia. Vogliamo entrare un po', inoltrarci e rompere un po' le palle al direttore artistico, al direttore. Quanti musicale. Siete in tutto? Quanti siamo? Una ventina più o meno, dai. Diciamo che ci aggiriamo intorno alla ventina, dai. E da quant'è che siete in attività? Comos è nato nel 2008 e quindi sì, ormai sono 7 anni, 8 l'anno prossimo e ecco. Comos alla conquista del mondo? Speriamo. Dove siete stati? No, perché so che siete stati in giro parecchio. E siamo stati, l'anno scorso siamo stati a Dublino, quest'anno siamo stati a Parigi, anni fa a Monaco, anno prossimo saremo ad Amsterdam. E avete fatto anche un festival di cori gay italiani, giusto? Qui in Italia abbiamo fatto a maggio scorso Cromatica, primissimo festival dei cori gay italiani a Bologna, qui quindi abbiamo avuto l'onore e l'onere di ospitare questa grandissima evento in prima assoluta. E adesso io so che Max c'ha il domandone. No, non è un domandone, è quello che hanno fatto tante volte a me quando facevo parte del Comos e che adesso rivolgo a lui per vedere se è bravo e se risponde bene. Tu come? Poi ci dici come rispondevi tu in caso le differenze? Non c'è bisogno. Che bisogno c'è di un coro gay? Ta-da! Come dicevo io, magari per andare in giro vestito da Befane? No, vabbè, dai, a parte gli scherzi. Che bisogno c'è? C'è bisogno di mandare un messaggio culturale e sociale al di fuori degli stereotipi che si sentono dire in giro, e quindi c'è bisogno di comunicare quelli che sono i nostri messaggi di volere e di pretendere un posto giusto nel mondo anche attraverso la musica e attraverso il canto, quindi, perché è una forma bellissima per stare insieme, è una forma bellissima per far vedere che, insomma, alla fine non è che essere gay ti crea una situazione per la quale non puoi fare quelle cose che possono fare tranquillamente tutti e che fanno tranquillamente tutti. Quindi veicolare un messaggio positivo attraverso il canto, insomma. Com'è andata? Sono abbastanza soddisfatto. Grazie Comos. Grazie mille a voi. Quali sono i vostri prossimi appuntamenti, se ne avete? Allora, prossimi appuntamenti o dovremmo... Seppure se non ne avete, se siete in vacanza. Cioè, è la notte di Natale. Per ora siamo in vacanza. Per poi diciamo che nell'anno nuovo sarà ricchissimo di appuntamenti. Abbiamo sicuramente la prossima edizione di Cromatica a maggio. Poi, come dicevo prima, andremo... Per la quale ci saremo, per il Ma io credo di sì. Sì, sì, sì, sì. E poi ci sarà appunto l'appuntamento ad Amsterdam per l'Euro Pride, per quindi anche quella sarà non molto ci importante. Saremo. Poi sicuramente combineremo qualcosa qui a Bologna per il Pride di Bologna a fine giugno, quindi tra metà e fine giugno, e poi tante altre cose che si stanno piano piano mettendo a punto. Però, teniamoci in contatto. Ma visto che la Federa prima mi ha chiesto qualche cosa rispetto al vostro rapporto con la Chiesa evangelica e con la Chiesa valdese che vi ospita da tanti anni, e dunque magari dalla tua voce vorrei sapere qualche cosa di più rispetto al rapporto tra questo coro e questa idea di Chiesa cristiana. Il rapporto è molto proficuo, nel senso che qua siamo ospiti ormai da tanti anni, quindi dopo la famosa cacciata dalla Beverara... Perché raccontalo. Molto brevemente, Comos venne accolto nei suoi primissimi anni di attività alla chiesa della Beverara, la chiesa cattolica, dove c'era Don Nildo, che era un prete di veramente ampie visioni e non era, diciamo, chiuso nelle solite mentalità cattoliche, e ci siamo resistiti poco, qualche mese, dopodiché dei fedeli, quindi persone che giravano intorno alla chiesa, hanno manifestato la loro contrarietà a questa cosa, hanno scritto tanto di lettera a Cardinal Caffarra, e quindi cacciati. Siete stati cacciati dal cardinale, è un onore di pochi, Le streghe. E quindi accolti qua in via Venezian, la chiesa evangelica, dove tuttora quindi siamo accolti e tenuti come buoni figli, ecco. Abbiamo avuto anche modo di cantare per le loro funzioni, quindi abbiamo proprio anche l'anno scorso, soprattutto per esempio. Dunque esiste un modo moderno di essere cristiani. Sì, esiste un modo modernissimo. Perché sai, il bambino Gesù nasce stanotte, per cui è bene mandare un messaggio un po' diverso dal solito. Ci sono bambini Gesù e i bambini Gesù. E comunque questa chiesa non ospita solo il Comos, giusto? Certamente. Per questa sera cosa ci aspetta? C'è questo bellissimo concerto del quartetto vocale Campiello, è un quartetto di professionisti cantanti, del quale fa parte il nostro direttore Emiliano Esposito, e che appunto stasera faranno questo programma che va dalla musica sacra fino alla musica profana dei giorni d'oggi, e quindi anche canti natalizi, quindi faranno un repertorio molto vasto di queste quattro voci meravigliose, sono bravissime, insomma. Delle quali noi abbiamo rubato qualche momento di prova. Allora, grazie. Adesso ascoltiamo anche il Campiello. Grazie mille a voi. Ciao, buon Natale. A presto. Buon Natale. Cox spaziale. Già finito?